Pensate che la nostra finestra sul digitale e sull'innovazione questa mattina ci occupiamo di editoria digitale. Eh sì, perché se le informazioni ormai e le notizie viaggiano su internet, oltre che sui giornali, anche i libri si possono leggere in formato digitale, non solo sulla rete, ma anche portandosele in giro. Stiamo parlando ovviamente degli ebook e dei dispositivi collegati agli ebook, che sono gli e-reader. Ma facciamo un po' di ordine. Questa mattina non abbiamo per voi il Glossatech per spiegarvi esattamente che cos'è un ebook. Allora proviamo a guardare su Wikipedia a vedere se l'enciclopedia universale ci può dare una mano. E allora, un ebook, in italiano libro elettronico o e-libro, è un libro in formato elettronico o meglio digitale. Si tratta quindi di un file consultabile sul computer, sui telefonini di ultima generazione, palmari o appositi lettori digitali. Il termine deriva dalla contrazione delle parole inglesi electronic book e viene utilizzato per indicare proprio la versione in digitale di una qualsiasi pubblicazione. Nel caso ci si riferisca invece al dispositivo di lettura, è più corretto riferirsi ad esso come un lettore di ebook, oppure in inglese un ebook reader. I formati sono i più diversi, sono veramente tanti, dal PDF tradizionale ai più specifici come ad esempio Mobi o EPUB. Ma cosa vuol dire per l'editoria buttarsi nel mondo del digitale? Cosa vuol dire per uno scrittore anche sperimentarsi con il digitale e decidere che il proprio libro non viene più letto sulla carta tradizionalmente, ma direttamente su un dispositivo digitale? Noi l'abbiamo chiesto questa mattina a Ivo Ming per avere un punto di vista degli scrittori, ma abbiamo anche sentito e chiameremo oggi anche i rappresentanti degli editori. Insomma, l'editoria non è sicuramente in un momento semplice, la crisi colpisce anche lì. Andiamo a vedere se il digitale può essere una soluzione. Ma voi leggete i libri in digitale oppure preferite la carta? Oppure preferite la carta per i romanzi, ma magari i vecchi manualoni da 1000 pagine avete deciso di cominciare a consultare online, insomma, anche solo per non portarsi tanto peso sulle spalle. I nostri contatti, l'SMS è il 348-7649-289, la mail è diretta a @radiocittadelcapo.it, ma come sempre ci potete anche contattare sui nostri social network. E allora, Twitter pensate che con il CH, ovviamente chiocciolina davanti, e su Facebook la pagina di Radio Città del Capo. Vi dicevo che abbiamo sentito i Wuming, in particolare Wuming 4, perché il collettivo di scrittori, che voi tutti ovviamente conoscete, esce con un ebook, si chiama Jap, l'archivio e la strada. Di fatto è l'archivio del blog dei Wuming, che si chiama appunto Jap, una selezione dei best dei post, ed è edito da Simplicissimus. Allora andiamo a vedere Wuming 4, come ci presenta il suo ebook. Ricordiamo, i Wuming hanno sempre pubblicato in formato digitale libro gratuito praticamente la maggior parte dei loro libri. In questo caso invece si tratta di un ebook in senso stretto e quindi come tale acquistabile in rete, anche se a prezzo irrisorio, insomma per pochi euro. E allora andiamo a vedere come i Wuming rispondono a questa

di assai poco virtuale come il traffico cittadino questa mattina. E infatti ricordiamo, magari approfittiamo per la notizia di servizio, ricordiamo che questa mattina c'è lo sciopero dei bus, è cominciato alle 8.30, continuerà fino alle 16.30 e poi ancora dalle 19.30 fino a fine servizio. Non fatevi a Carracci, ecco, diamo questa notizia e ovviamente attendiamo anche le segnalazioni degli ascoltatori anche su questo argomento molto meno digitale. Torniamo a parlare di libri allora. Dicevamo già per l'archivio e la strada, vi dicevo, costa pochi euro, più precisamente 3,99, e soprattutto non ha la protezione il DRM. Che cos'è il DRM, Elisabetta? Allora, il DRM è un acronimo per Digital Rights Management, è il sistema di gestione del copyright, dei diritti digitali, è sostanzialmente un blocco, se vogliamo. Cioè, fondamentalmente si tratta di un pezzettino di codice che viene inserito nel libro, in questo caso, in realtà non è tipico solo dei libri digitali ma anche degli altri file, dei file musicali, dei file video eccetera, ma nello specifico del libro, e sostanzialmente consente, diciamo, di controllare che quel libro non venga poi diffuso liberamente da chi l'ha comprato e non venga quindi copiato. Insomma, è una sorta di limite alla libera circolazione, per usare un termine che ci piace spesso ricordare qui a Pensatec, del contenuto stesso del libro. È proprietario, cioè ci sono per esempio alcuni e-reader che funzionano con un loro specifico formato. Sappiamo che esiste un link strettissimo per esempio fra la piattaforma Amazon e i suoi reader, che è il Kindle, e se noi compriamo un libro in formato Kindle non è leggibile su nessun altro e-book reader, e così via. Ci sono in realtà molti altri accoppiamenti, adesso quello di Amazon è un po' quello che colpisce di più perché naturalmente è una delle piattaforme più utilizzate. È anche una cosa che blocca il prestito invece tra i lettori, che invece è la cosa più diffusa, e anche che far circolare la letteratura cartacea. I Wuming mantengono invece la circolazione dei loro scritti anche in digitale, soprattutto mantengono la licenza in Creative Commons. E allora continuiamo a sentire l'intervista di Wuming 4 che ci conferma questa cosa e ci dà anche qualche spunto sul futuro del ruolo degli scrittori. È vero, ma dire, questa poi è sempre rimasta la nostra filosofia di fondo, diciamo, non ci interessa contraddirla, ci interessa capire come il nostro mestiere muterà o dovrà mutare, ecco, perché comunque non riteniamo utile fare passi indietro, ecco, tornare indietro in questo momento. Applicare delle politiche protezionistiche in una fase di trasformazione non è mai consigliabile, sarebbe, come dire, appunto la reazione sbagliata. In questo momento, ripeto, bisogna capire come il mestiere dello scrittore, nel nostro caso, ma riguarda l'editoria forse più in generale, dovrà cambiare. Può darsi, ma è soltanto un'ipotesi, ad esempio, che a fronte appunto del mantenimento delle licenze aperte si debba cominciare a macinare chilometri trasformandosi effettivamente in cantastorie, cioè avere un approccio più performativo. Penso ad esempio a tanti esperimenti che abbiamo tentato anche noi nel corso degli anni, come ad esempio i reading musicali, l'interazione appunto con musica, immagine, eccetera, per dare vita a degli spettacoli, a tutti gli effetti, spettacoli di cantastorie, che un po', insomma, unire un mestiere antichissimo alle sinergie più moderne. Questa potrebbe essere, però il condizionale è d'obbligo in questo caso, una delle vie di sviluppo del nostro mestiere, oppure chissà, ecco, puntini puntini. Oppure chissà, allora andremo a vedere anche quali saranno i risultati e la diffusione degli ebook di JAP, l'archivio e la strada, scritto da Yiwu Ming, la raccolta del loro blog online. E Yiwu Ming ci hanno indicato una delle strade che gli scrittori possono seguire, che è quella di tornare a delle pratiche più performative, ci diceva Yiwu Ming 4. Ma a questo punto ci chiediamo anche se il digitale, proprio l'editoria digitale, non possa essere una delle strade di uscita. Lo chiediamo a Simone Bedetti, l'editore di Area 51 Publishing. Buona giornata, Bedetti. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. E allora il digitale poi... Sì. Perché insomma, io a Radice del Capo le voglio molto bene. Grazie, grazie anche per questa uscita, grazie mille. Allora, Bedetti, l'editoria non è in un momento semplice, non è un momento semplice anche per gli scrittori. Il digitale può essere una delle vie d'uscita? Ma mi chiedi per gli scrittori o per l'editoria? Beh, prima di tutto ovviamente lo chiedo come editore. Come editore, guarda, io posso parlare dell'esperienza di Area 51 Publishing, che appunto è la casa editrice che ho fondato nel 2010. Ho visto un po' l'evoluzione del mercato digitale da tempi in cui diciamo il mercato non era manco esisteva, nel senso che quando si diceva non vendiamo niente non era fra virgolette, cioè non era una lamentela dell'editore, era proprio senza virgolette, cioè non si vendeva niente. Non voglio entrare naturalmente perché, come posso dire, non è il tempo è estremamente limitato rispetto a quelle che sono le criticità proprio di questa trasformazione del mercato. Penso che però il mercato digitale sia, come i dati e i numeri dicono, un settore in crescita, forse l'unico settore in crescita in ambito editoriale. Come sia in crescita e quale sia la direzione che prende, quindi quali previsioni si possono fare, io penso che nessuno possa dirlo. Io personalmente le ultime previsioni che ho fatto sono state che Avatar non sarebbe stato un flop e che alle ultime elezioni Monti avrebbe avuto il 24%, quindi ecco, io da quel momento ho deciso di stare zitto fino al 2040 almeno per riguardo alle previsioni. Quindi posso ci puoi però dire quali sono le potenzialità che invece l'editoria digitale ha? Cioè chiediamo perché un lettore dovrebbe leggere i libri in digitale invece che sulla carta? Guarda, io penso che la trasformazione, ecco, della, se così la vogliamo intendere, della lettura digitale sia essenzialmente la possibilità di attingere da parte dei lettori, quindi, a una quantità virtualmente infinita di contenuti. Per tutta una serie di caratteristiche, dalla cosiddetta coda lunga al fatto che comunque gli aggregatori e quindi i contenitori di contenuti, quelli da cui noi attingiamo, che siano i siti, che siano gli store digitali eccetera eccetera, comunque tendono a conservare, come già accaduto e accade nella musica, il file, non c'è più tutta quella funzionalità che aveva precedentemente la carta, quindi il valore di oggetto merce, quindi lo spostamento, l'immagazzinamento, la tiratura, il sell-in eccetera eccetera. Questo fa sì che appunto la tendenza sarà e sempre più è, perché adesso il valore, diciamo, dell'editoria digitale, il valore economico è dato dalla sua quantità, se vogliamo è una sorta di incontro, di ibridazione tra quelle che sono le prassi tradizionali editoriali e quelle che invece sono le prassi economiche del web. Ecco, chi è che fa i soldi nel digitale oggi? Esatto, questa domanda è fondamentale, Simone Bedetti, per capirci. Chi è che fa i soldi nel digitale? L'editoria riesce a fare un pochino i soldi nel digitale? Riesce a essere un settore che ha anche un ritorno economico? Oppure okay, in questa fase siamo ancora nel momento in cui stiamo esplorando questa possibilità? Ma io allora, chi fa i soldi nel digitale sono essenzialmente, nell'editoria digitale diciamo così, sono essenzialmente fornitori di connettività, sono creatori di hardware e sono aggregatori. E quindi ecco, l'editore sicuramente perde quella che era il suo vantaggio strategico, cioè quello di essere il vertice della piramide editoriale economica. Lo vediamo, no? Amazon è un esempio straordinariamente eloquente in questo. Il contenuto, cioè se Apple, ecco, Apple proprio vende hardware, quindi contenuti a partire dalle app e con anche la conseguente abbattimento e politica dei prezzi che è stata fatta per esempio nelle app e sta replicandosi anche in misura relativamente minore, questo dà dei dati molto più interessanti rispetto all'ebook. Gli serve i contenuti perché per riempire gli hardware, per un attimo sintetizzare, un po' stilizzare la cosa. Amazon, che sostiene di vendere contenuti, in realtà vende aggregazione di contenuti, cioè vende la quantità, la massa di accesso a questi contenuti che si possono utilizzare attraverso i propri device, con una virtuosa integrazione appunto tra dispositivo e contenuti. Chi produce contenuti, e qui io ci metto tutti, infatti io la distinzione tra autore, editore un po' tradizionale li aggrego intorno a creatori di contenuti, ma ci metto anche i traduttori, ci metto anche i redattori, ci metto anche tutte le persone, i convertitori adesso, quelli che creano, i papi grafici, cioè tutti coloro che nel settore editoriale lavorano, e la centralità del lavoro che diceva Wuming 4 mi pare essenziale su questo, cioè quelli che lavorano per creare questi contenuti. Quindi il vantaggio sicuramente è che nell'editoria diventerà un po' tutto contenuto, cioè tutto il valore economico del contenuto editoriale digitale è il suo contenuto, non c'è più la stampa, non c'è più il valore appunto di merce, la movimentazione, distributore, eccetera. Ciò che si perde, se vogliamo, è appunto questa centralità, oltre a un abbattimento determinato da politiche non soltanto di crisi, che inevitabilmente trasforma, cioè secondo me il vantaggio, non tanto il vantaggio, non vorrei ragionare in termini di vantaggio e di svantaggio, la trasformazione è la trasformazione di abitudini, no? Questa crisi cambia una serie di abitudini di consumo, è laddove uno degli elementi centrali è sicuramente la convenienza, quindi ecco, per rispondere alla tua domanda, chi fa i soldi? Qualcuno li sta già facendo, non sono chi, credo, non sono chi produce contenuti. Però è vero che chi produce contenuti crescendo all'interno di un sistema completamente differente, che non ha più tutti quei costi, che non ha più questi di accesso, che non ha tutta una serie di gerarchie precedenti e che può mixare quantità e qualità, perché questo ti garantisce, essendo tutto contenuto e veicolando tutti i costi nel contenuto, secondo me c'è spazio. Questo è un po' il, spero di essermi spiegato. Un po' e speriamo che lo spazio a questo punto sia anche per contenuti ad alta qualità, insomma, che siano quelli che vengano favoriti. Sì, questo, scusami se ti interrompo su questa cosa qui, se concludo. Il contenuto, ecco, trasforma anche tutta la forma di accesso, di scelta e di valore dei contenuti. Trovo difficile che su 1 milione, voglio dire, di potenziali contenuti digitali, le stesse gerarchie attuali, no, di informazione che ci veicolano poi la scelta di questi contenuti funzionino. Banalmente, insomma, non sarà più facile, voglio dire, a determinare il valore di vendita di un titolo, sarà molto difficile. Anche questo è una sfida anche a voi, insomma, che lavorate nell'informazione, come trovare le chiavi, trovare quali sono effettivamente le nuove ordini di scelta. Grazie a Simone Bedetti, editore di R51 Publishing. Buona giornata. Buona giornata. Ricordiamo i contatti: www.area51editore.com. Ma noi adesso ci spostiamo subito a Genova, perché andiamo a sentire un altro editore, Quinta Copertina. Noi abbiamo parlato con Fabrizio Venerandi, che è appunto il co-editore di Quinta Copertina. Gli abbiamo chiesto qual è la differenza tra un editore digitale nativo puro e invece grandi editori che si sperimentano con il digitale. Beh, la differenza è sostanziale, nel senso che nel momento che noi progettiamo un ebook, noi lo progettiamo perché la fruizione, ovvero la lettura, sia fatta su un dispositivo digitale, quindi non pensiamo a un'uscita su carta che poi viene convertita in maniera più o meno statica per un ebook, ma i nostri ebook da subito hanno una struttura che ha a che fare per alcuni aspetti più al web che alla struttura del libro tradizionale. I nostri ebook infatti si possono sfogliare così come si sfoglia un libro, ma hanno anche tutta una serie di navigazioni, di interazioni, di accesso a testi che è più simile a quello che è la lettura di testi sul web. Questo apre le strade anche ad alcune sperimentazioni. Sì, da subito noi siamo partiti con una collana di narrativa interattiva. E la nostra idea è quella di prendere tutta una serie di tradizioni della narrativa appunto interattiva, sia quella tradizionale, diciamo così, l'iperromanzo calviniano, sia anche quella ludica, e penso alle avventure testuali e penso al libro game, e di reinventarla attraverso una lettura su dispositivo mobile, su ebook, con storie che si presentano non come romanzi nel senso classico del termine, ma come dei veri e propri ambienti di lettura. Si può parlare con i personaggi, si può dire ai personaggi cosa fare, si può scegliere se entrare in un flashback oppure no, e quindi si può avere una relazione con la storia che è decisamente differente rispetto a quella di un romanzo tradizionale. E ancora abbiamo creato degli abbonamenti allo scrittore, non si acquista più un libro ma si entra in un servizio grazie al quale si ricevono man mano nel corso del tempo degli ebook con tutto quello che uno scrittore sta scrivendo, quindi pezzi di romanzi in fase di scrittura oppure romanzi inediti o sillogi mai pubblicate, e quindi si ha accesso a tutta una parte di lavoro dello scrittore che di solito resta invisibile. Quindi un abbonamento allo scrittore anche come nuova strategia per uscire dalla crisi dell'editoria. Era Fabrizio Venerandi di Quinta Copertina, casa editrice nativa digitale per così dire, che sta cercando anche delle soluzioni diverse per far in modo che un libro digitale non sia semplicemente la trasposizione in digitale di quello che invece è il libro tradizionale. Sì, io chiederei ai nostri ascoltatori, Damiana, di continuare e di provare anche a twittarci sempre al nostro contatto @pensatech col CH anche nei prossimi giorni, perché è un tema su cui vorremmo rimanere un pochino noi di Pensatech, capire come usano, se usano questi strumenti e se per loro, diciamo, è una pura trasposizione soltanto dal libro com'era di carta, adesso è con l'inchiostro elettronico, se invece appunto stanno esplorando questi nuovi modi di fruire questi contenuti, quindi quali sono anche le loro esperienze. E allora noi andiamo a vedere invece il caso di una casa editrice, Agenzia X di Milano, che è stata un po' apripista nel digitale. Stiamo parlando qui di una casa editrice più tradizionale, ma che da sempre invece si è sperimentata con il digitale. Allora, buongiorno a Marco Filopat. Buongiorno a tutti. Allora, per una casa editrice indipendente come la vostra, il digitale può essere un'opportunità? In questo momento è ancora una sperimentazione o comincia a essere anche un terreno di crescita? Ma guarda, noi siamo partiti addirittura a metà degli anni Ottanta con la Shaker, facendo un discorso più che altro politico sulla socializzazione dei nuovi strumenti di lavoro, che erano appunto i computer allora, e abbiamo fatto una lunga battaglia sul no copyright. Quando è nata l'Agenzia X nel 2006 abbiamo deciso di mettere in rete gratuitamente tutti i nostri libri in PDF. E questa cosa qui ci ha portato ad avere tantissimi lettori nelle periferie, nelle fasce più deboli della popolazione, che non avevano accesso perché poi i libri alla fine costano tanto. Abbiamo sentito prima i Wuming che dicevano questo circolo virtuoso tra il digitale e il cartaceo in realtà ultimamente si è un po' bloccato, è così anche per voi? Non è tanto vero nel nostro caso, perché noi abbiamo il cartaceo dei libri che non arrivano nemmeno alle 300 copie vendute, e alle volte queste 300 copie sono 3.000, 5.000, alle volte anche 10.000 PDF scaricati, e quindi noi non vediamo questa contrazione, insomma, anzi forse addirittura c'è un aumento. Però è anche vero che adesso con i nuovi reader da Kindle e quant'altro, i PDF non riesci più troppo a leggerli bene, e quindi noi ci stiamo attrezzando per fare gli ebook. Questa cosa qui però ci sta portando via parecchi lettori del cartaceo, e quindi probabilmente tra poche settimane noi metteremo sui nostri siti anche gli ebook non in vendita, ma con una sovvenzione, cioè una sovvenzione, insomma, una libera sovvenzione. Un contributo. Ovviamente anche per voi questa cosa dei formati differenti sta creando un limite più che una potenzialità. Sì, in effetti sì, anche se però non lo vediamo per adesso nel numero degli scaricati, però a lungo andare sicuramente sarà così, e quindi per questo ci stiamo attrezzando. Il nostro blocco era il fatto che fare gli ebook non è così tanto semplice, noi siamo una piccolissima redazione, siamo in 3 persone, figurati, e quindi come tante altre piccole case editrici avevamo pensato in un primo tempo di affidarci a dei service per fare gli ebook dei nostri libri, ma poi dopo alla fine questi service avevamo scoperto che quasi tutti fanno lavorare a mezzo centesimo l'ora degli indiani o dei pakistani, e quindi abbiamo deciso di imparare noi a farli gli ebook. Finalmente abbiamo imparato, perché non è tanto facile farli bene, e quindi adesso siamo capaci di farli noi e non sfruttiamo più nessuno è un bel tema questo. Anche quello della formazione riguardo agli ebook. Grazie a Marco Filopat, Agenzia X, buona giornata. Buona giornata anche a voi, ciao.